Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. I tell we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deadass, no fur, no. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione radiofonica, un format animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Solitamente vi proponiamo commenti di fatti di cronaca e cultura dal punto di vista e nell'interesse degli altri animali, ma questa puntata sarà speciale. Sarà un mosaico di musica, una playlist bellissima, preparata, spiegata e mixata per voi da Anna Granata e Gianluca Masala, nostri colleghi di redazione. Gli autori che con molto amore e competenza Anna e Gianluca hanno scelto sono personaggi della scena musicale che hanno preso apertamente posizione contro lo sfruttamento e la schiavitù animale. Dunque buon ascolto, aprite le orecchie ma soprattutto aprite il cuore. Tra i tanti musicisti che hanno fatto una scelta vegana aderendo al movimento che propone l'adozione di uno stile di vita basato su risorse non provenienti dal regno animale, abbiamo deciso di proporvi una selezione di coloro che hanno creato brani in sintonia con questo libero atto di volontà. Sono pezzi speciali, in qualche modo coraggiosi e innovativi. Richard Melville Hall, meglio conosciuto con il nome d'arte di Moby, non è un artista qualunque. Moby è DJ, produttore discografico, cantante, cantautore, fotografo, esponente di prima linea della lotta per i diritti degli animali. Ha dato un grande contributo nello sviluppo della musica elettronica dagli inizi degli anni 90 ad oggi e ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo ed è considerato una delle più importanti figure della musica dance contemporanea. Egli dice: per me il modo migliore per promuovere la causa del veganismo è trattare le persone con rispetto. La produzione animale industriale distrugge tutto ciò che tocca: animali, lavoratori, comunità, ambiente, persone che consumano quel prodotto. Bisogna istruirsi, capire da dove proviene il cibo, quali siano le conseguenze ambientali e le conseguenze sulla salute della scelta onnivora. Yeah. record machine. I knew he must have been about 17. Joan Jett è una cantante, chitarrista, bassista, produttrice discografica statunitense, vegetariana dagli anni Ottanta per motivi etici. 20 anni fa ho pensato: qual è la differenza tra mangiare una bistecca insanguinata e uccidere il mio cane, aprirlo e arrossirlo? È stato un cambio di passo per la front woman delle Runaways. Ora è una delle principali sostenitrici di People for the Ethical Treatment of Animals, nell'acronimo PETA, che è un'organizzazione no profits a sostegno dei diritti degli animali. Prince si è avvicinato alla dieta vegana negli anni 90, una scelta più volte ribadita in alcune delle sue canzoni del periodo. Nel 99 decise di chiudere l'album Rave On To The Joy Fantastic con la citazione di Gandhi: la vita di un agnello non è meno preziosa di quello di un umano. Francis skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Nel 98 Prince dedicò la canzone Animal Kingdom al tema, parlando proprio del suo rifiuto di carne e altri derivati, perché siamo tutti membri del regno animale, lasciate i vostri fratelli e sorelle in mare. Dato l'impegno e la convinzione per l'alimentazione vegana, nel 2006 l'associazione PETA l'ha premiato come artista veg più sexy dell'anno. Negli ultimi tempi, sostenitore di numerose campagne ambientali, Prince si è esposto in prima persona sul tema dei diritti degli animali, anche richiedendo una giornata internazionale di sensibilizzazione, nonché la chiusura legale di ogni macello. Inoltre, sempre negli anni 90, pare abbia contestato l'allevamento di pecore per la produzione della lana, così come riporta CBS News, incentivando l'uso di fibre vegetali per l'abbigliamento. Classe 2001, cantautrice statunitense vincitrice di un Grammy con 65 milioni di dischi venduti tra album e singoli digitali, è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Billie Eilish è diventata vegana nel 2014. Ha pianificato il viaggio vegano per eccellenza. In vista dell'uscita del suo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha creato una guida parlando del suo cibo vegano preferito nei ristoranti di tutto il paese. Dal titolo «Quando tutti vogliamo mangiare vegano, dove andiamo?» Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Ad Austin, Eilish sceglie insalatine colorate e nutrienti. Caffè Gratitude è il punto di riferimento di Eilish a Los Angeles. A Miami, Eilish consiglia Love Life Caffè. Il suo piatto d'autore è uno dei pasti più instagrammabili del paese. Chiamato The Love Life Salad, contiene cavolo riccio biologico, quinoa, verdure aromatiche arrostite, verdure miste, ceci, semi di canapa, avocado e parmigiano vegano. Nel giugno 2019, Eilish ha pubblicato su Instagram filmati sotto copertura, realizzati a Fair Oaks Farms, una struttura dell'Indiana che fornisce latte di mucca al marchio di latticini Fair Life. La denuncia, che si dice sia la più grande indagine sui latticini sotto copertura di sempre, ha mostrato che i lavoratori agricoli abusavano dei vitelli. Lennox, musicista, cantante e cantautrice scozzese, è sia solista che cantante del duo Eurythmics, acclamata come The Greatest White Soul Singer Alive. Lennox ha venduto 80 milioni di dischi. Si è avvicinata al vegetarianesimo negli anni 80 dopo aver conosciuto il suo primo marito seguace Hare Krishna. Ha dichiarato che il non mangiare animali è un forte atto di coscienza, così come altre pratiche nella vita quotidiana. È un atto di responsabilità che richiede forza interiore. Tony Ashwin Cannell è bassista, tastierista nella rock band californiana No Doubt. Vincitore di un Grammy, Tony Cannell è diventato vegano nel 2012 dopo essere stato vegetariano per anni. Il rocker e sua moglie, Erin Lockitz, hanno persino veganizzato la loro casa. Avevamo divani in piuma, coperte di lana. Una volta che ci siamo resi conto di come venivano sfruttati gli animali per creare questi oggetti, siamo rimasti devastati. Quando è arrivato il momento di ridipingere, sapevamo che nessuna di queste cose sarebbe più stata in casa nostra. Cannell è anche attivista. Partecipa regolarmente alle marce per i diritti degli animali e alle veglie per i maiali al macello di Farmer John a Vernon, in California. Day è un membro del Wu-Tang Clan, un super collettivo hip hop newyorkese. Il rapper americano ha detto che non c'è niente su questo pianeta che non vuole vivere. Sono abbastanza sicuro che gli animali non vogliono essere nel mio piatto. Quando mangi prodotti animali, stai mangiando quello stress, quella malattia, quella paura. Aggiungendo anche, non lo so, non ho bisogno di un animale morto o di un pezzo di carne morto che entri nel mio corpo vivo. Nel 2018, RZA ha lanciato la sua linea di moda vegana. La collezione comprende camicie, giacche, CD, cappelli, calzini, portafogli in pelle cruelty free. When I was small, we had nothing. Killer bee once hummed me a tune. Stay up at night, don't sleep on your moon. Four C's in the bed, eight C's in the room. Afternoon cartoon, we would fight for the spoon. Alert in the kitchen, yell it's time to eat. Across the floor, you hear a dozen stampeding feet. 1 pound boxes. George Harrison, che è il primo Beatles a interessarsi all'India, sceglie la via vegetariana nel 1966. Nel 68 i Beatles decidono di soggiornare per un periodo in India, presso l'ashram di Maharishi Mahesh Yogi. In quell'occasione anche Paul ebbe un primo contatto con l'alimentazione cruelty free. Mentre George Harrison da allora sarà sempre vegetariano, Paul lo diventerà negli anni 70, grazie alla moglie Linda Eastman. Insieme saranno fortemente impegnati per i diritti animali, anche partecipando a campagne di organizzazioni come PETA, e dopo la morte di Linda, Paul rimane uno degli artisti più attivi per la questione animalista. Sua è la famosa frase: se i macelli avessero le pareti di vetro, tutti sarebbero vegetariani. Nel 2009, insieme alle figlie Stella e Mari, lancia l'iniziativa Meat Free Monday, tuttora attiva per avvicinare le persone all'alimentazione cruelty free e al movimento per i diritti degli animali. La versione che ascoltiamo di While My Guitar Gently Weeps di George Harrison è estratta dal film Across the Universe. I look at the world. And I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I look at you all. Morrissey, cantautore e scrittore britannico, considerato tra i più importanti precursori e innovatori della musica indie e britpop. Morrissey è ritenuto uno dei più grandi parolieri della storia della musica britannica e i suoi testi sono diventati oggetto di studio accademico. Giunto al successo negli anni Ottanta come voce principale della band inglese The Smiths, nell'87, dopo la separazione del gruppo, si avviò a una carriera solista durante la quale ha pubblicato diversi album, incrementando ulteriormente la propria popolarità a livello internazionale. Vegano di solida convinzione, acceso sostenitore da sempre dei diritti degli animali, il secondo album della sua ex band The Smiths nell'85 si intitolava proprio Meat is Mother. Di lui è nota la scelta di non far vendere prodotti animali durante i suoi concerti e laddove non sia stato possibile ha annullato la data. PETA ha eletto Morrissey Person of the Year 2011 per avere contribuito a rendere il mondo un luogo più gentile attraverso la sua promozione dei diritti degli animali e del veganesimo. Vi salutiamo proponendovi l'ultimo artista di questa scaletta. Classe 45, Franco Battiato è artista dotato di raffinata intelligenza, grande cultura e spiccata sensibilità. Sono vegetariano convinto da tanti anni, nemmeno ricordo quanti. Già da piccolo rifiutavo la carne. Col passare del tempo essere vegetariani è diventata una necessità esistenziale. Non posso più nutrirmi di qualcosa che è vicino alla sensibilità umana. E un giorno ormai lontano ho capito che la mia era una scelta irreversibile. Anche perché vedo i risultati sulla mia salute e sul mio stato mentale. Da quando ho bandito carne e pesce faccio sogni più belli e so per certo che dipende dal cibo che mangio. Per concludere questa puntata abbiamo scelto di farvi ascoltare questo brano che per noi rappresenta la promessa di prenderci cura degli esseri senzienti senza differenza di specie. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali,